effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E allora, ciao a tutti i nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Vi trovate nello spazio della stampa rassegnata, trasmissione che si promette di farvi fare un viaggio, un salto dentro le notizie della cronaca locale, facendo dei ragionamenti e delle riflessioni il più possibile ampie, con particolare riferimento alle due vertenze popolari che stanno animando l'area metropolitana fiorentina, quella contro la costruzione dell'inceneritore di Case Passerini e quella contro la trasformazione del piccolo aeroporto di Peretola, piccolo ma già e fin troppo grande e ingombrante, in aeroporto intercontinentale. Siete, se ci avete trovato per caso, in onde media all'1359, questa è Radio Wombat, come ho detto, questa è la stampa rassegnata e partiamo per l'appunto con la lettura e lo sguardo ai giornali fiorentini. Dal Corriere Fiorentino del 27 di settembre comincia un monito, un avviso che potrebbe suonare per alcuni come una minaccia. Nardella, campagna casa per casa, le primarie non mi fanno paura. Magari a lui no, ma a noi forse un po' di paura ce la fanno anche queste primarie, soprattutto quest'idea del caffè e della campagna casa per casa. Sottotitolo: il sindaco e la strategia per le comunali, l'idea delle elezioni diretta dei presidenti di quartiere. Che ci dice Nardella, che va a mettere a realizzare a proporre una tecnica ormai neanche troppo interessante ed innovativa, cioè quella di provare a recuperare casa per casa e un rapporto così sociale, insomma faccia a faccia con gli abitanti e con i cittadini, facendo derivato da una considerazione tutto sommato, ripeto, ormai diventata abbastanza banale, perché lo ha fatto Renzi, lo hanno fatto gli uomini della destra, è stato fatto in tante stagioni politiche. Ogni qualvolta c'è in qualche modo una crisi di consenso, si pensa che una delle difficoltà sia anche lo scollamento dalla società che viene colto quasi e solo ed esclusivamente non tanto come un'incapacità di rappresentare i bisogni e le specificità delle classi popolari, ma viene inteso come una frainteso come una questione meramente comunicativa, e quindi si contrappongono i media, quindi una volta la televisione, una volta i giornali. In questo caso c'è una sorta di autocritica ad un eccessivo, secondo loro, utilizzo dei social media, e invece ad un rapporto che è stato perso con la strada, con il bar. Mai si parla di luoghi di lavoro, attenzione, si parla quasi sempre di strada, si parla quasi sempre appunto di una società astrattamente intesa. Insomma, questo è quello che ha riflettuto a fondo anche Nardella, e questo è quello che ci annuncia. Nelle case dei fiorentini, dice l'articolo, per un caffè, un aperitivo, a pranzo, per ascoltarli, sentire anche le critiche e soprattutto per convincerli, chiaramente. Il sindaco Dario Nardella ha scelto la trasmissione televisiva La Pancia su RTV38 per lanciare la campagna di ascolto e di incontro con i cittadini, casa per casa. Punta forte anche sulla lista Nardella e su altre liste civiche. Nardella ha parlato anche di grandi opere, difendendo l'alta velocità e lo sviluppo dell'aeroporto di Peretola, e proprio partendo dalla tranvia ha annunciato le sue strategie. Vi chiedo scusa quest'oggi perché, vittima del mutamento climatico e di questa stagione assolutamente allucinante, con crolli termici improvvisi e sbalzi, termici impressionanti. Ho preso il raffreddore o forse una piccola influenza, insomma ho tentato di non rinunciare con tutte le mie forze alla trasmissione, però mi prendete per come sono, quindi con una voce leggermente nasale e qualche colpettino di tosse e di raucedine. Insomma, niente, ecco, Nardella, oltre alla tattica, ci ha parlato un po' anche di programma, difendendo chiaramente, come sta facendo ormai da mesi, la questione delle infrastrutture. Con infrastrutture su Firenze la leggiamo ormai da molto tempo come grandi opere, come alta velocità, quindi il nodo del sottoattraversamento TAV, che nell'idea nardelliana di città continua a essere le due canne di tunnel che dalla zona del Sodo Castello dovrebbero arrivare, interrarsi e arrivare poi al cantiere di Ponte Alpino, realizzando anche la stazione sotterranea o semisotterranea che sia nell'area Belfiore Marcello, quella zona collocata tra Viale Corsica e Via Circondaria, che da anni Firenze conosce per la sua cantierizzazione davvero impressionante. Una cantierizzazione che è costata già milioni di euro alle casse pubbliche e che, nonostante questo, è ancora lì, è un cratere, è un monito per conto nostro, un monito all'incapacità, all'inconsistenza della progettazione a mezzo di grandi opere. Però insomma, loro continuano a difenderla e a insistere su il fatto che l'alta velocità vada realizzata, e vada realizzato questo passante proprio così, con il tunnel. Dall'altra parte, come ci ha già detto, difende fortemente lo sviluppo dell'area dell'aeroporto di Peretola, che, come abbiamo detto più volte, poi lo vedremo anche grazie, o meglio, insomma, grazie, sì, guardando anche un'altra notizia, è lo sviluppo poi dell'intero quadrante nord-ovest della città. Va avanti l'articolo dicendo: in 4 anni e mezzo, pochi ci credevano, abbiamo realizzato 2 linee di tranvia. Ovviamente questa è Nardella che parla, come ci eravamo impegnati a fare, ed anche per questo penso di potermi presentare a testa alta ai fiorentini per Palazzo Vecchio, con intensità ed umiltà. Tutti i giorni lavoro e giro per la città per ascoltare i fiorentini e soprattutto chi è in difficoltà. Per me è importante il rapporto con la comunità e credo che i fiorentini sappiano che lavoro 14 ore al giorno per loro. Questo chiaramente è Nardella che parla di se stesso, e su questo penso non ci sia bisogno di fare commenti. Se mi criticheranno, non ho paura, io mi confronto sempre, anche con chi è critico. Lavorerò anche ad una lista Nardella oltre al PD. Ecco, questo forse un passaggio interessante, molto di più che Nardella che sbrodola su se stesso, sulle proprie, sui propri talenti, sulle proprie capacità, sul proprio impegno, il fatto che Nardella lavorerà anche ad una lista oltre al PD, perché ci sono tanti che si riconoscono nella mia persona, hanno fiducia in me, e ad altre liste che raccolgono la grande vitalità civica della città. Ci sono tanti che fanno politica, tra virgolette, ogni giorno, anche senza fare politica. Ecco, questo mi è sembrato un passaggio interessante, nel senso che Nardella, che cercherà di navigare all'interno di quella che è una crisi sicuramente nazionale, di consenso e di credibilità del Partito Democratico, punta un po' tutto sulla sua persona e sul suo precedente operato piuttosto che sul Partito Democratico stesso, all'interno del quale continua a sguazzare come... D'altronde da lì viene e all'interno di questo si muove, però cercherà di dare un po' di rilevanza anche a questa lista civica su se stesso. Ricordiamolo che anche alle scorse elezioni Nardella aveva una lista civica personale in qualche modo, però evidentemente in questa situazione vuole acquistare più valore e più peso. Credo che con questa minaccia del Nardellone, che ci può suonare al campanello di casa e venire a prendere il caffè, possiamo chiudere su questa notizia e andare avanti. Andare avanti che in realtà in questo caso significa andare indietro, perché andiamo ad un articolo del 21 di settembre da La Nazione, una questione sicuramente molto rilevante, che è il NI. Cioè non è un sì, non è un no, è un ni, quello dell'università nei confronti del master plan aeroportuale. Come abbiamo già detto e come ormai saprete un po' a memoria, un po' perché vi scasso la wallera continuamente, si è aperta con il 7 di settembre la conferenza dei servizi a Roma, conferenza dei servizi che è quel, diciamo, quell'organo, o meglio quegli interorgani che convoca tutte le gli enti e le organizzazioni coinvolte nella tutela, nella programmazione territoriale e infrastrutturale che riguarda il nuovo e famoso aeroporto di Firenze. A questa conferenza dei servizi c'era ovviamente convocata anche l'Università di Firenze, per la quale si è espresso il rettore. Parere del rettore che è, come ha titolato già La Nazione, e se lo titola La Nazione, che solitamente ci ha regalato dei titoli molto certi e molto entusiasti rispetto al progetto di costruzione del nuovo aeroporto, sicuramente lo possiamo considerare veramente un ni, altrimenti insomma ci saremmo aspettati un titolo della Nazione tipo Anche il rettore vola, l'università mette le ali o qualcosa del genere, perché come più volte vi ho detto nei mesi scorsi, La Nazione soprattutto si è sperticata nel utilizzare similitudini, immagini e metafore dal mondo del volo. Ogni qualvolta intorno all'aeroporto c'è stato un passaggio di questa danza immobile lunghissima che va avanti, torna indietro, viene spinta fortissimamente anche contro ogni legislazione, anche facendosi beffe, prendendo in giro gli organi competenti appunto di tutela e di programmazione territoriale, però insomma va avanti e siamo arrivati fino alla conferenza dei servizi picchia e mena, e proprio picchia e mena siamo arrivati anche a questo ni dell'università, cioè che cosa ha fatto l'attuale rettore, che è Luigi Dei, che ha sostituito Alberto Tesi, ha in qualche modo voluto tenere, come si dice in gergo popolare, il piede in due staffe. Se con il rettore Tesi c'era stata una presa di posizione da parte dell'università molto molto critica nei confronti del progetto di nuovo aeroporto, che andava e va e andrebbe, diciamo più che altro andrebbe, usiamo il condizionale, a condizionare fortissimamente sia l'attuale area del polo scientifico di Sesto Fiorentino, sia soprattutto le previste edificazioni in senso di sviluppo di quello che è il polo scientifico. Il rettore Tesi aveva espresso un parere fortemente negativo sul master plan, diciamo così. Invece il rettore attuale, il rettore Dei, ha espresso questo famoso ni. È un ni perché, come dice già il sottotitolo dell'articolo della Nazione, il parere condizionato dell'Ateneo in conferenza dei servizi, 5 punti da rivedere. Leggendo un po' l'articolo, o meglio guardando un po' le parti che ho selezionato perché abbiano un senso, l'Università di Firenze dice ni al master plan di sviluppo dell'aeroporto di Peretola, il cui futuro è appeso alle decisioni del governo. Il ni è un parere condizionato che è stato espresso nella relazione consegnata dall'Ateneo in sede di conferenza dei servizi, come ho detto a Roma il 7 di settembre, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un sì che è legato a una serie di condizioni che, se non saranno realizzate, si trasformerà in un no motivato. Paletti quindi che l'università ha messo, contando di poter esigere quanto richiesto al tavolo di contrattazione e, in caso contrario, di potersi tutelare successivamente in sede civile. Ecco qui cominciamo a sottolineare o a fare in qualche modo un po' di sottolineatura intorno a questa idea, quella di potersi in caso rivalere in futuro in sede civile. Questo è forse l'aspetto più pericoloso della posizione presa dall'università, cioè quella di rimandare eventuali questioni a risarcimenti e compensazioni future. Quindi la possibilità che l'infrastruttura venga fatta, condizionata però da eventuali rimborsi rispetto a ciò che non torna, è una posizione, riteniamo, molto pericolosa, proprio perché, come spesso accade, opere di questo genere sono così spinte, così volute dai poteri forti che potrebbero col tempo anche avere la capacità di risarcire tutti e proprio grazie al potere del denaro mettere a tacere tutte quelle voci e tutti quegli aspetti che rendevano l'opera incompatibile con una cosa o con l'altra. In questo caso gli aspetti di incompatibilità o comunque di contrasto e sovrapposizione con altre previsioni di sviluppo territoriale nell'area, per l'appunto del polo scientifico di Sesto, sono diverse. Guardiamole un po' un attimo, ripeto, rispetto a quello che ho sottolineato. Diciamo, cambiando nel frattempo rettore da Alberto Tesi a Luigi Dei, come vi ho già detto, l'Ateneo non ha cambiato idea sul piano di sviluppo del Vespucci rispetto a quando furono presentati i due ricorsi al Presidente della Repubblica, nei quali si lamentavano carenze tecniche e lacune. Innanzitutto c'è da spiegare qualcosa, cioè le motivazioni che hanno portato l'Ateneo a prendere questa posizione. Il polo scientifico, in 5 punti di fondamentale importanza, ricordando che è proprietaria, ricorda che è proprietaria di 158.000 metri quadri di terreno nel comune di Sesto, limitrofo alla zona aeroportuale. Quindi questa è ovviamente la ragione, cioè l'Università di Firenze detiene 158.000 metri quadri di terreno nel comune di Sesto, limitrofo alla zona aeroportuale. Un'area che in larga parte finirà nella zona di rischio C e che, in base al regolamento ENAC, proibisce la costruzione di edifici ad alta densità di frequentazione. Però in questo caso gli edifici ci sono già, non è che ci andrebbero costruiti, ci sono già, eppure pare che sembrerebbe che per ora sia tutto regolare, no? Insomma, perdendo il potere edificatore acquisito, l'Ateneo chiede di essere risarcito del danno economico di cui patirà. Ecco l'aspetto negativo e pericoloso, no? Si dice, io non posso più costruire, non mi fai più costruire perché mi ci fai l'aeroporto e quindi mi dai dei soldi. Questi soldi glieli potrebbero anche dare alla fine e quindi chi ha più denaro va a decidere. Ovviamente più denaro rispetto all'università pubblica, anche se pubblico oggi è un parolone, anche rispetto all'università, ma insomma quando c'è da pagare sono sempre i soldi pubblici e quindi assumiamo che l'università in questo caso, da questo punto di vista, utilizzerebbe dei soldi pubblici. Quindi tra l'università pubblica e l'aeroporto, che è anch'esso in parte pubblico ma in gran parte privato e ovviamente un'infrastruttura che realizzerebbe molto probabilmente incassi da capogiro, il potere del denaro va a decidere e quindi chiaramente la posizione la riteniamo molto pericolosa. Ci sono poi degli altri aspetti: l'università venga sollevata e anzi indennizzata per essere costretta a riprogettare il piano particolareggiato nel quale l'Ateneo aveva preso impegni con il comune di Sesto per costruire nuove strutture di ricerca che non potranno più farsi in quanto previste proprio nella fascia C del divieto imposto da ENAC. Ecco, ancora una volta ricorre questa sovrapposizione negativa e l'impossibilità che questa enorme prossimità, enorme vicinanza tra l'eventuale nuova pista di 2400 metri e il polo mette a repentaglio la possibilità di sviluppo di altri edifici destinati alla ricerca universitaria. Ma non finisce qui, perché l'università sta facendo anche i lavori per mettersi in regola secondo quanto previsto dal comune di Sesto per il rischio idraulico. Se non verranno fatte le vasche di laminazione, il polo scientifico non rispetterà il piano particolareggiato in un'area che dopo sarà espropriata. Chiaramente questo altro tema molto importante, perché come sappiamo accanto al polo scientifico passa proprio il Fosso Reale, passano un'altra serie di canali che vanno poi a convergere nel Fosso Reale, che è, diciamo, il canale maestro che poi va a regimare a valle il sistema delle acque alte della piana, raccogliendole e regimandole, come ho detto, e che appunto questa situazione di rischio idraulico legata proprio alla zona che è di padule, che è di piana alluvionale, sta impegnando l'università in una serie di impegni presi col comune di Sesto per la sistemazione del canale di Cinta, ma anche per la deviazione del Fosso Reale. L'università chiede che il nuovo assetto non metta in difficoltà il polo scientifico. Questa è una promessa che l'università non può chiedere a Toscana Aeroporti e ad ENAC, proprio perché ancora nel master plan la questione del fosso reale non è stata in nessun modo risolta, cioè il fosso reale, che è quel fosso di cui ho parlato adesso, che costeggia il polo scientifico, dovrebbe, proprio perché andrebbe a tagliare l'eventuale pista futura, dovrebbe essere nei progetti del master plan portato in testa alla pista, quindi più o meno, per capirsi, all'altezza del casello autostradale di Firenze Nord, e poi passare sotto l'autostrada e ritornare nella sua sede, con un allungamento artificiale di un circa 3 km in su e in giù, e questo sotto attraversamento autostradale che è stato tecnicamente affrontato ma non risolto, e con un, tra l'altro, ancora vige un parere assolutamente negativo da parte del consorzio di bonifica Medio Valdarno, che è l'ente che gestisce e è incaricato della sorveglianza idraulica, che ha detto questa proposta è infattibile. Non ce ne state altre di proposte, eppure si sta andando avanti in questa maniera. Come dicevo all'inizio, questo iter per l'aeroporto di Firenze va avanti anche così, con enormi lacune, con un continuo rinviare i problemi in avanti, cosa che più volte ci ha portato in modo preoccupato a dire che se il sì definitivo fosse strappato sia alla conferenza dei servizi sia all'attuale governo, che si è un po', che ha un po' ridimensionato le dichiarazioni e le promesse che il governo Renzi invece aveva fatto fortemente a Toscana Aeroporti, a Carrai, attraverso il famoso giglio magico e tutta una serie di intrecci, di interessi e di legami tra politica e imprenditoria che bene abbiamo visto e conosciuto, ci ha portato, ripeto, a grosse preoccupazioni, perché tutta questa serie di problematiche che non sono state affrontate in via preliminare, che vengono continuamente rinviate in avanti, pur di avere un sì e un semaforo verde a partire, se dovessero un giorno veramente cominciare a mettere mano nell'area dell'aeroporto, tutti questi problemi non risolti andrebbero poi di fatto affrontati, e affrontandoli in corso d'opera porterebbero a una lievitazione dei costi impressionante, che è la caratteristica peculiare del sistema delle grandi opere, quello delle varianti in corso d'opera e della lievitazione dei costi, anche perché questi costi, queste opere che poi verrebbero considerate accessorie, pur essendo in realtà preliminari, graverebbero sul bilancio e sulle casse pubbliche. Quindi dai 150 milioni di finanziamento governativo, che è quello che è previsto fino ad oggi, chissà dove arriveremmo una volta realizzata l'opera. Quindi più o meno queste sono le criticità che ha indicato l'Università di Firenze alla conferenza dei servizi, anche se, come ho detto, appunto non è un no secco, non è neanche un sì certo, è un ni funzionale ancora una volta a questo tipo di logica, cioè a digerire il problema e a mandarlo avanti. Si va avanti a forza di ni e vediamo cosa succederà. Insomma, no, la strada non è facile per loro, anche dal punto di vista amministrativo, e non lo è mai stata sicuramente anche dal basso. Gli abitanti e le classi popolari della piana, dentro le quali si sta da tempo radicando un'opposizione a quest'opera e a tutte le collateralità di quest'opera, che sono la Mercafir, lo stadio, la costruzione praticamente di Firenze 2 in quella che era l'area Unipol tra Castello VI e lo Smannoro e il viale 11 agosto, stanno appunto tentando di far capire alla gente che tutto questo è la distruzione definitiva del sistema piana e la compromissione totale del parco. Ora, per non annoiarvi troppo, vi mando un pezzettino musicale, anche perché sono arrivato corfiatone, e proprio corfiatone vi faccio questa pausa. Bella frate, bella sorella, le gorfiatone. Digliela sorella, non gliela mannare a dire, digliela. E mo gliela dico. Quando son pato il fosso del destino, amo inchiodato davanti al fio del cretino. Sto pizzardone con la paletta in mano ci fa. Bella regà, stai contro mano. C'ho la rabbia che che me urla dentro al mutandone. Sono in manco perché ho imboccato sto stradone. E il cartello stradale è un maleficio, una bastardata che hai pensato in un ufficio. È una iellata che te pia all'improvviso, fa come il cagotto senza preavviso. Te dico basta, te dico fermate, te dico conto un tre e te schianto un femore. E te stacco pure il braccio, il braccio. E te di secondo nome fai son poraccio. Tra re anno in giro del culo sempre rima, anno in giro del culo rima. Da quando abbiamo il caffè al bar e la madina, al bar e la madina. Pure quando c'ho volta a letto a Filippina, che si chiama Gina. Perché sta vita non è una figurina, che finisci l'album e chiami tu cugina. Mo spacca, spacca, sore, chissà che hai detto. Io del pollo me magno solo il petto. E il fio della migna in divisa m'ha sgamato sto vedente. Mi dice te levo 10 punti dalla patente. Allora dimo a frate, abbi pazienza. Mettete le mani sulla coscienza. In cambio noi te regalamo una credenza. Perché questa città te piazza un groppo in gola. E senza un barconcino in dole stendi le lenzola. Io sbalzo fuori dal Mercedes de mi padre balsamato. Non gli do tempo de piaffiato. Occhio cico che ho sbroccato. Gli parti ma pizzardone. Scusi c'ha ragione, non ho visto il cartellone. Me dole il capoccione. Lo riporto. Sai che te stiamo a di. No che gli stiamo a. Non c'è blasta. C'avemo torto. Frate a noi c'ero del culo sempre rima. C'ero del culo rima. Da quando abbiamo il caffè al bar e la mattina. Al bar e la mattina. Abbasso la guerra. Terra e tutti giù per terra, fa un culo la pena di morte, le gambe storte, l'uscita Roma Orte, abbassa quella tassa, la panna rimane grassa, Rita Pavone passa. Tutto questo gliel'abbiamo detto di un fiato, col fiatone. Mo andiamo coi mezzi. Yo. Del sudore, mo spacca, spacca, sore, chissà che hai detto. Io il motorino lo leggo al paletto. Eccoci, allora se anche a voi vero del culo siete sintonizzati sulla stazione giusta, in onde medie 1359, questa è Radio Wombat e questa è la stampa rassegnata. Riprendiamo le nostre cronache, riprendiamole con una notizia effettivamente che può lasciare qualcuno a bocca aperta o stupito, e che sono le dimissioni di Livio Giannotti da Alia. La prendiamo dalla cronaca fiorentina della Nazione del 26 di settembre. Alia, dopo 16 anni, lascia Giannotti, ma continua a lavorare nel gruppo. Ha gestito una fase cruciale dell'azienda, al suo posto Alessia Scappini. Che è successo? Che Livio Giannotti, storico uomo del Quadrifoglio SPA, che poi appunto, come ha già detto nell'articolo, ha gestito una fase cruciale dell'azienda, perché è stata anche quella della trasformazione da Quadrifoglio ad Alia SPA, se ne va, non va immediatamente in pensione, sembra al momento in cui la notizia è stata data non c'è niente. Nei giorni successivi, diciamo, e nelle chiacchiere abbastanza informate e competenti all'interno dei comitati che seguono le questioni all'interno di Zero Waste, all'interno di Rifiuti Zero, Mamme Non Inceneritore, l'Assemblea del Presidio e quant'altro, gira voce che venga ricollocato alla Revent, l'azienda che nell'Empolese si occupa della raccolta del vetro, alluminio e plastica, che più o meno la conoscete, sono quelli che con camioncini a padroncino passano a ritirare le campane, quelle che diciamo chiamiamo campane del vetro, anche se raccolgono insieme vetro, plastica e alluminio. Sembra che Giannotti se ne vada proprio lì, preparandosi sicuramente alla pensione, perché l'età ce l'ha, però insomma ancora non esce del tutto dal gioco. C'era stata la preoccupazione seria che se ne potesse andare a dirigere lato Toscana Centro, cosa che fortunatamente non è avvenuta. anche perché appunto di quando si parla di Giannotti, chi lo ricorda o chi ha seguito negli anni le vicende dei nostri territori e dell'opposizione che da tempo, quantomeno a cicli diversi in base al livello di iniziativa delle lobby inceneritoriste, dire Giannotti vuol dire inceneritore, perché Giannotti è uno degli uomini che sicuramente è stato più convinto della necessità che la piana fiorentina, come d'altronde secondo lui tutta Italia e tutti i territori, dovrebbero chiudere il ciclo dei rifiuti con l'incenerimento, e quindi la preoccupazione seria che lasciando Alia potesse andare ad Ato Centro. Invece insomma se ne va alla Revet, questo non vuol dire che esce di scena, insomma vuol dire che resta, anche se insomma, come ho detto, se ne va da Alia. Al suo posto viene questa si è detto Alessia Scappini, che si vocifera non essere da meno in quanto a convinzioni rispetto all'utilità o necessità dell'incenerimento dei rifiuti, a chiudere il ciclo, come amano dire gli inceneritoristi, che è stata, insomma, ci lavora da tempo, viene mi pare da Viareggio, ma non mi vorrei ora sbilanciare in commenti che faccio solo a memoria e sui quali non vorrei poi dirvi delle bischerate, sarebbe meglio evitare. Insomma, Giannotti se ne va chiaramente tra gli applausi e i ringraziamenti di tutti, assessori, Nardella, appunto l'assessore Lorenzo Perra, Dario Nardella, tutti lo salutano caldamente come un grande, e dal loro punto di vista indubbiamente Giannotti lo è stato, perché appunto nella gestione di un'economia capitalistica Giannotti si è sicuramente incaricato di insomma di normalizzare la chiusura del ciclo dei prodotti e delle merci attraverso la distruzione creativa, che è una delle leggi fondamentali del sistema e del modo di produzione capitalistico. Lui si è incaricato di far sparire questi prodotti in modo non magico, attraverso soprattutto il sistema delle discariche, ma anche quello dell'incenerimento, anche se sui nostri territori, nello specifico nel lato centro, nella Toscana lato centro, a parte purtroppo Montale e Baciacavallo, però come inceneritore di rifiuti industriali speciali, non è riuscito mai a collocarli. Sicuramente anche la, tra virgolette, la sconfitta, più che loro sconfitta, in qualche modo è una nostra vittoria sul tavolo della sentenza del TAR prima e del Consiglio di Stato poi, che ha bocciato l'iter autorizzativo intorno all'inceneritore di Firenze, Case Passerini. Sicuramente anche questo ha avuto un suo ruolo, ha giocato un suo ruolo nello spostamento e nella convinzione che Giannotti avesse fatto il suo tempo intorno a questa vicenda. Cioè, appunto, parlando di questo, quindi degli applausi che Giannotti ha ricevuto proprio per aver tentato in tutti i modi di costruire questo inceneritore nella piana, un inceneritore, ricordiamo, da 198.000 tonnellate annue, che dovrebbe servire appunto lo smaltimento nella loro testa e nei loro piani di tutta la provincia di Firenze. C'è una notizia a seguito e all'interno di questa che comunque dà la dimensione del tentativo di riorganizzazione degli avversari dopo quella che vi ho detto, quella piccola vittoria, ma importante e significativa vittoria sul tavolo legale, che è stata la sentenza del Consiglio di Stato, arrivata appunto nel giugno di quest'anno, che ha ribadito la sospensiva data dal TAR nel novembre del 2017. La notizia qual è? Che è di ieri, la leggo dalla Nazione, è di ieri inoltre la notizia che la società Q-Termo, qui faccio un piccolo inciso per chi non se lo dovesse ricordare, la società Q-Termo è quella che propone la costruzione dell'inceneritore di Firenze, Case Passerini, formata sia da Alia, prima era Quadrifoglio, ora è Alia, Dall'altra parte dal gruppo Era, questa multi utility veramente gigantesca e pantagruelica sia nel fatturato che nella sua diffusione sul territorio emiliano, che appunto gestisce acqua, luce, gas, molti impianti di smaltimento in Emilia. Insomma, la società Q-Termo ha notificato al Consiglio di Stato la richiesta di revoca della sentenza di maggio con cui veniva annullata l'autorizzazione. Ecco, questa è la notizia che fa percepire il tentativo di riorganizzazione, cioè la sentenza del Consiglio di Stato ovviamente non è piaciuta e la tenteranno di impugnarla. La dirigenza di Alia e del partner emiliano Era vanno quindi avanti, così come prosegue la protesta dei comitati. Si sono prontamente attivate le combattive mamme all'inceneritore, i cittadini dicono non intendono farsi prendere in giro, faranno pressione e informazione. L'amministrazione locale ha il diritto e il dovere di attivare le buone pratiche con un moderno servizio di raccolta porta a porta e tariffazione puntuale per arrivare a un tasso di differenziata e riciclo economicamente fruttuosi e in accordo con le nuove direttive degno di un regime di una regione civile. Niente, quindi questo è quanto. Poi c'è un brevissimo commento che fa da sponda, che oggi alle 9 una delegazione delle mamme non inceneritore, ovviamente non erano da sole, ma insomma sui giornali purtroppo per fortuna ci sono sempre solo loro, parteciperà al presidio di fronte al consiglio regionale in via Cavour con il comitato per il no all'inceneritore di Scarlino. Quello che avevamo annunciato anche da questi microfoni la settimana scorsa è stato riportato anche dalla Nazione a seguito di quest'articolo. In sostanza, che cosa succede? Che Q-Termo, facciamo diciamo un passo indietro, Q-Termo ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato. Perché la impugna? Perché se ve lo ricordate o se non ve lo ricordate, ovviamente sono qui per ripeterlo e fare per quel che mi compete e mi riesce un po' di chiarezza, aveva annullato l'iter autorizzativo per l'inceneritore, cogliendo tra i tanti punti che nel nostro ricorso avevamo indicato quello più debole, che in sostanza accogliendo il ricorso fatto dal comune di Campi Bisenzio attraverso il sindaco Emiliano Fossi, che era l'argomento più debole ma anche quello per loro più accettabile, cioè il fatto che non fossero stati piantumati gli alberi che avrebbero dovuto formare il cosiddetto bosco della piana, che sarebbe dovuto servire a mitigare le emissioni inquinanti dell'inceneritore. Siccome questa piantumazione di alberi non c'era stata preventivamente alla costruzione dell'inceneritore, nel momento in cui le autorizzazioni erano arrivate, perché la conferenza dei servizi per l'inceneritore di Case Passerini era stata fatta e erano usciti con un sì, la sentenza ha annullato l'autorizzazione perché mancavano queste piante a mitigare. Ora che succede? Che Q-Termo dice: siccome nel master plan dello sviluppo aeroportuale di Peretola, che è quello di cui parlavamo prima della canzone, la piantumazione delle piante c'è perché dovrebbe servire a mitigare gli effetti dell'aeroporto, allora se queste piante verranno piantate varranno anche per l'inceneritore e quindi la sentenza che ha bloccato le autorizzazioni non è valida e possiamo ricominciare. Ecco, questa assurdità che dal nostro punto di vista è assurda, per loro invece è coerente. Diciamo, dal nostro punto di vista questa cosa indica almeno due elementi importanti: da una parte che c'è una visione abbastanza organica da parte dei padroni della piana fiorentina, che va dal centro di Firenze fino alla piana, all'estrema periferia e alle infrastrutture che dovrebbero servire l'assalto al centro storico. Come da sempre diciamo, il progetto politico è abbastanza evidente: lo sfruttamento del centro, l'assalto al centro storico attraverso la rendita fondiaria, attraverso la fabbrica del turismo e le infrastrutture che servono a tutto questo. Sicuramente l'aeroporto, un aeroporto che loro immaginano più grande, capace di portare sempre più consumatori verso la città, e anche le infrastrutture che servono a smaltire i rifiuti, che una città che diventa il paese dei balocchi per chi viene a fare solo vacanza e soprattutto vacanza di lusso, figuriamoci se la possiamo tormentare con richieste ai loro occhi assurde come quelle della raccolta differenziata, della tariffazione puntuale, dell'attenzione sui rifiuti. Si butta tutto nei cassoni sottoterra, beh, purché non diano fastidio e non rovinino il paesaggio, e poi li bruciamo nella piana dove tanto vivono gli abitanti delle periferie che, se va bene, le cui vite, se va bene, valgono meno, se no non valgono niente. Questo è un progetto a tutti gli effetti politico che loro hanno in modo abbastanza chiaro in mente, e che questa capacità di nascondere un'opera, una grande opera dentro l'altra, in questo caso nascondere l'inceneritore all'interno del master plan aeroportuale, ce ne dà la dimensione e la misura. Quindi a tutti quelli che nel tempo hanno considerato complottistico voler guardare alla realtà sociale in questi termini e hanno ho preteso o sperato semplicemente che le cose fossero diverse, che si potessero affrontare le problematiche anche in modo spicciolo, anche in modo separato, cioè separandole l'una dall'altra, la realtà e l'iniziativa della controparte padronale ci dimostra sempre il contrario, cioè che è la solidarietà e l'unità delle lotte che ci permette di fare dei passi avanti e non la scomposizione in 100.000 piccole, diverse, unitarie vertenze che insomma che ci manda più a, insomma che ci fa a fare dei passi in avanti. Ci dice anche un'altra cosa, cioè che quello che diciamo il compito di mitigare tutte le emissioni inquinanti che un aeroporto intercontinentale e un inceneritore da 198.000 tonnellate annue produrrebbero in termini di inquinamento dell'area, sia come particolato 2,5, PM2,5, PM10, ma sia anche come come furani, come ossidi e biossidi, insomma come tutto quello che potrebbero emettere aerei da una parte e inceneritore dall'altra, tutta questa mitigazione dovrebbe e sarebbe nella loro testa affidata ai famosi boschi della piana, che poi nient'altro sarebbero che ciò che si salva dal master plan aeroportuale rispetto a quello che erano le previsioni del parco agricolo della piana. Un parco agricolo della piana che nelle previsioni ormai datate del 2013-2014 della regione toscana doveva essere abbastanza grande, e invece se si dovesse veramente sovrapporre il progetto di sviluppo aeroportuale verrebbe mangiato drasticamente, quasi del 70%, e quello che sopravvive sarebbero poi il famoso bosco o boschi della piana, alle cui piante, una volta piantumate, sarebbe affidato il compito di mitigare tutto. Quindi questa è la situazione assolutamente assurda che ci troviamo davanti, ma insomma tant'è. Altra piccola notizia che vi voglio leggere, andando avanti e cambiando relativamente tema, proprio perché siamo ancora a parlare di quello di cui stavamo parlando. 28 settembre 2018, su Repubblica, Teatro Comunale, via libera al recupero, previsti 150 alloggi. La giunta approva il progetto su 15.000 metri quadrati di superficie. Il complesso è in corso di vendita al fondo di investimento Hiens. Ex teatro comunale, siamo nella zona della, chi la conosce, di Firenze Centro, della zona dell'ambasciata o anche zona del vecchio teatro comunale, via Solferino, via Solferino, insomma quella più indicativa. Arriva l'ok al piano di recupero. La giunta di Palazzo Vecchio approva ieri le carte urbanistiche per dare il via all'operazione di rigenerazione urbana. Notare sempre le infiocchettature, le circonvoluzioni lessicali, forse più ambiziosa fra quelle impostate in questi anni, almeno in centro. Non la più fortunata, venduto dal comune a 23 milioni di euro a Cassa Depositi e Prestiti nel 2014, si sta parlando dello stabile, l'immobile di Corso Italia, eccolo qui il teatro, è stato l'anno dopo opzionato dalla società Nikila Invest, che è poi però entrata in crisi anche in seguito a guai giudiziari, chissà che gli è successo, ora ce ne ricorderemo in qualche altra puntata, e l'operazione è saltata. Il bene è ora rientrato a Cassa Depositi e Prestiti, che è però in fase di trattativa finale. Con chi? Con il fondo americano Hines, per la cessione. Al posto del vecchio teatro non nasceranno alberghi né studentati, ma un nuovo mega complesso residenziale di lusso da circa 150 appartamenti con una piccola parte di direzionale. Ecco, questa è la sorte del vecchio teatro comunale. C'era da aspettarselo perché appunto era una trasformazione urbanistica più che annunciata, era evidentemente il destino di questo immobile già nel momento in cui era stato venduto e si era e che con Renzi sindaco si era avviato i lavori per il nuovo teatro comunale. Sapevamo tutti che sarebbe successo questo, come praticamente succede a tutti gli edifici che restano contenitori vuoti o dismessi nel centro di Firenze. Ciò che tira in questo momento, o sembra tirare, è la residenza di lusso, e quindi anche qui saranno 150 appartamenti di lusso. Che dire, credo che la notizia si commenti da sola, fa appunto va in coerenza con quello che abbiamo detto fin qui, guardandolo però dal punto di vista della piana. Fino a qui abbiamo parlato di inceneritore e di infrastruttura aeroportuale, cioè trasportistica, che andrebbe a riempire Firenze di nuovi turisti, e qui si parla della rendita fondiaria di un fondo di investimenti privato che va a investire nel comprarsi il vecchio teatro comunale per farne appartamenti di lusso. La coerenza è, direi, assoluta. Ultima e non ultima, la notizia sugli operai della Bekaert. Operai, notizia del 28 di settembre, gli operai Bekaert appesi a un filo. Questa era la notizia, diciamo, della mattinata. In realtà poi nel pomeriggio arriva, proprio nel pomeriggio di venerdì 28, arriva la firma da parte del governo, dell'entourage del governo, del decreto Genova, decreto che conteneva anche altre cose, tra cui appunto il ripristino della cassa integrazione per le aree di crisi, della cassa straordinaria in deroga per le aziende che chiudono, che era stata, come sappiamo e come ci ricorderemo, drammaticamente cancellata dal Jobs Act di Renzi. Quindi gli operai della Bekaert, o Bekaert a seconda delle pronunce, la mia pronuncia ignorante è Bekaert, in qualche modo festeggiano. Chiaramente c'è poco da festeggiare, nel senso che abbiamo comunque 318 operai in cassa integrazione, però nello stesso tempo la festeggiamo e la viviamo anche come in qualche modo come la vittoria di un certo protagonismo operaio, di un certo attivismo anche sociale che si è dato intorno a questa vertenza contro la perdita dei posti di lavoro e per l'attivazione della cassa integrazione. Fortunatamente dentro il decreto Genova ci sono rientrati anche come tempi, perché appunto era stata annunciata come una lotta contro il tempo, perché doveva essere approvato il decreto entro il 2 di marzo e è già stato messo nel gazzettino ufficiale. Quindi la notizia è ufficiale, anche se l'articolo di cronaca che stavo guardando e di cui vi stavo parlando era precedente all'arrivo della notizia. Proprio per chiudere e per salutarvi, due parole sulla Bekaert, le facciamo dire direttamente agli operai da un piccolo audio che ho recuperato, un audio di giugno che a differenza di ora, cioè nel momento in cui gli operai in qualche modo hanno ottenuto un risultato, quantomeno una boccata d'aria, una boccata d'ossigeno come l'hanno definita, che è quella di avere la cassa integrazione e quindi potersi non disperdere come gruppo, non dover ricominciare a cercare immediatamente lavoro a 50 anni dal giorno dopo, ma poter rimanere insieme e in qualche modo tentare anche di far ripartire la fabbrica, farla riacquistare da qualcuno, qualche proprietà interessata, e quindi reindustrializzare lo stabilimento produttivo. A giugno invece erano appena arrivate le lettere di licenziamento e queste erano le parole degli operai. Ve le faccio sentire, nel mentre vi saluto con i soliti pugni chiusi, baci e abbracci, alla prossima settimana, ciao ciao. Al momento in cui abbiamo avuto la notizia i lavoratori uscivano ed entravano in sciopero dai vari dipartimenti, vari stabilimenti, varie parti dello stabilimento, e fuori c'erano le mogli, i bambini, i genitori dei lavoratori dentro con le lettere in mano, perché nel frattempo erano arrivate le lettere del preannuncio della chiusura, mentre i lavoratori erano dentro e non ne sapevano niente. Questa è stata probabilmente la scena più drammatica, e la forza e la violenza con cui è stato perpetrato questo atto è un atto assolutamente arrogante di violenza. Quindi i lavoratori increduli che si dirigevano verso il presidio del cancello, e fuori trovavano i parenti, i familiari, i figlioli, le mogli in lacrime con la lettera di cessazione dell'attività. Qui si sta praticamente parlando di un soggetto che è Bert, che ha acquistato, che in 10 anni, dal 2010, anzi in 8 anni, ad oggi ha chiuso i 3 stabilimenti in Belgio, mandando a casa con le stesse modalità 1000 lavoratori belgi, perché avevano uno stipendio dal 2005 a 2800 euro al mese, ha portato progressivamente il prodotto verso i paesi del sud dell'Europa, Spagna, uno stabilimento a Cagliari, uno stabilimento a Filline, e ora sta traguardando il prossimo traguardo nello spostare il tutto verso Romania e lo Slovacchia, 2 stabilimenti slovacchi e uno in Romania. Se come in questo caso, in maniera brutale, una multinazionale manda a casa 300 lavoratori, te che torni a casa ti vergogni con la tua famiglia di non avere più un lavoro, ti vergogni di non essere più una parte vitale del tessuto connettivo di una società. Lavoro qua da oltre 27 anni e ho sempre fatto l'operaio, semi lavorato e ottonato, lavorando anche le domeniche e le notti. Un dramma veramente grande per il Valdarno fiorentino, ma anche per tutto il Valdarno, perché comunque si parla di 318 operai che sono qui, però anche tutte le persone che lavorano, diciamo, all'esterno, cioè che vengono medite esterne a lavorare in questa fase. Abbiamo stimato circa 450 gli addetti, tra chi lavora dentro direttamente, chi lavora dentro in appalto, ci sono le ragazze della mensa, ci sono le ragazze della portineria. Per merito del Job Act di settembre del 2015, quei 24 mesi di ammortizzatore sociale che erano previsti per le aziende che cessavano sono state cancellate dal Job Act, e noi non abbiamo in questo momento, se la procedura rimane così e quindi con questa causale, nessun ammortizzatore, nessun paracadute per queste ragazze, perché non abbiamo il tempo materiale per fare nessuna trattativa, che sia di riconversione, che sia di vendita, perché in 69 giorni non si vende neanche una bicicletta. Questa è una valle, e se comunque gli togli 400 e passa persone, cioè togli 400 e oltre persone al lavoro, io penso sia un grave problema che si ripercuote poi anche nelle piccole attività. Siamo commercianti, abbiamo deciso insomma di chiudere questa mezz'ora in segno di solidarietà per i lavoratori, anche perché ne conosciamo molti che lavorano all'interno.